sensazioni più o meno profonde si rincorrono fugacemente, ed io anche se vado avanti non distingo più la realtà. Gira il mondo in continuazione ed io corro di qua e di là, neanche il tempo di accenderne una che è già finita per di più di metà. Una casa fatta a metà, una vita tutta a metà, in un mondo che muore a metà e quello che è passato non ritornerà. Una casa fatta a metà, una vita tutta a metà, con il mio amore che viene e che va. Ti amo amore mio, sei la mia metà. Il mondo in continuazione ed io canto questa realtà nelle sue sfaccettature sotto un caldo da crepar, e di corsa andiamo via, ti passo a prendere subito a scuola, neanche il tempo di fermarsi a pensare, solo un bacetto e poi a studiare. Una casa fatta a metà, una vita tutta a metà, in un mondo che muore a metà e quello che è passato non ritornerà. Una casa fatta a metà, una vita tutta a metà, con il mio amore che viene e che va. Ti amo amore mio, sei la mia metà. Finalmente è già l'una e mezza, ti accompagno a casa se vuoi, ci fermiamo un istante ti prego, voglio bere non ce la faccio più. Discussioni intorno a questa realtà, non adatte a due della nostra età. Dico scusa devo andare a casa, ci sentiamo oggi casomai. Una casa fatta a metà, una vita tutta a metà, in un mondo che muore a metà, e quello che è passato.